mia vita, tutto quanto il mio cuor. O te vicino, se vai mattino, o te vicino, o cuore a cuore, amore, amor. Dolce Maria, grazia sola, ed il mio dolce amor, tutta mia vita, che te appartiene, la voglia dare per il